adorata tua face, d'angelica al bel cor, prepara amore. Orlando! Bradamante, come tu qui. Del mio Ruggero in traccia. E la destra e la fede di sposo non ti die. Sorte rubella, per disusata via, poi me lo tosse. Sventurata! Massaggia, incantatrice Melissa, a me predisse cordel quidì il mio bene, per magico poter dalcina al fuoco. Consolati, cugina, se malagigi nostro oggi non mente, lieti saremo. Melissa e meco, in questo anel, contro gli incanti e l'arti dell'aga infedele, è il prezioso anel che da ogni incanto serba illeso chi il porta. E lo nasconde, si terrà le labbra e chiude agli occhi altrui. Potea però il guerriero usato arnese e l'onorata tua famosa spada render sempre più vano il tuo periglio. Sì, ma poteva ancor colta improvviso pria che in bocca chiudessi il sacro anello e se scoperta, or qui ad arcina ascondo e la mia fama e l'aria mia guerriera, tanto men bradamante io sembrerò costei quanto men fiera.